Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Si lasci dunque il lavoro all'avvocato, invece di disturbarlo. Le rimostranze non giovano molto, specie se non si riesce a farne capire i motivi in tutto il loro significato. Ma bisogna pur dire quanto K avesse danneggiato la sua causa col suo comportamento nei confronti del capo ufficio. Questo personaggio influente si poteva ormai cancellare dalla lista di coloro presso i quali si poteva tentare qualcosa in favore di K. Persino fuggevoli accenni al processo li lasciava cadere chiaramente di proposito. In certe cose i funzionari sono proprio come bambini. Spesso si offendono a tal punto per inezie, ma il comportamento di K non può purtroppo considerarsi tale, che non parlano più neppure con i migliori amici. Si voltano dall'altra parte quando li incontrano e cercano di osteggiarli in tutti i modi. Poi ad un tratto, fatto sorprendente, senza un motivo particolare, con un piccolo scherzo che si tenta solo perché tutto sembra inutile, si inducono a ridere e sono riconciliati. Trattare con loro è insieme facile e difficile. Mancano regole in proposito. A volte c'è da stupire che una sola vita di media durata basti a comprendere qualche successo nel proprio lavoro. Arrivano momenti di sconforto, come li abbiamo tutti, nei quali si crede di non avere raggiunto nulla, in cui sembra che abbiano avuto una conclusione felice solo quei processi fino dal principio destinati a un esito felice, come sarebbe avvenuto anche senza aiuti, mentre sono andati persi tutti gli altri, nonostante ogni assistenza, ogni fatica, ogni piccolo apparente successo del quale tanto ci si rallegrava. Allora nulla sembra più sicuro e non si oserebbe neppure più negare, di fronte a domande precise, che processi bene avviati per loro natura siano stati messi su una strada sbagliata proprio dall'assistenza. Anche questa, certo, è una specie di sicurezza di sé, ma è anche l'unica che poi rimane. A tali attacchi gli avvocati sono esposti, specie quando un processo che hanno portato avanti abbastanza in maniera soddisfacente è tolto loro di mano. Questo è il peggio che possa toccare a un avvocato. Il processo non è tolto loro dall'imputato, questo non accade mai. Un imputato che ha preso un determinato avvocato deve rimanere con lui, qualunque cosa accada. Come potrebbe reggersi più da solo una volta che ha chiesto aiuto? Questo dunque non accade. Accade invece a volte che il processo prenda una direzione in cui l'avvocato non può più seguirlo. Processo, imputato, tutto quanto sono semplicemente tolti all'avvocato. Allora neppure le migliori relazioni con i funzionari possono più servire, perché essi stessi non sanno niente. Il processo è entrato in uno stadio in cui non è più possibile portare nessun aiuto. Passa sotto la competenza di corti inaccessibili, dove l'imputato non è più raggiungibile neppure dall'avvocato. Ora, per fortuna, casi del genere sono eccezioni. E se anche il processo di K dovesse essere uno di quei casi, per il momento è ancora molto lontano da quello stadio. Ci sarebbero invece ancora molte occasioni di lavoro per l'avvocato, e K può essere sicuro che queste sarebbero state sfruttate. La memoria, come già detto, non è stata ancora presentata, ma non c'è neppure fretta. Molto più importanti sono le conversazioni preliminari con funzionari influenti, e queste sono già avvenute, con risultati diversi, come deve essere confessato apertamente. Per il momento sarebbe meglio non rivelare particolari che potrebbero influenzare K solo in modo negativo, dandogli troppe speranze o abbattendolo troppo. Basta dire che alcuni si sono dichiarati molto favorevoli e si sono anche mostrati ben disposti, mentre altri si sono espressi in modo meno favorevole, ma non hanno rifiutato la loro collaborazione. Tutto sommato, dunque, il risultato è molto soddisfacente, ma non si debbono trarre da esso conclusioni determinate, perché tutte le azioni preliminari cominciano allo stesso modo e solo lo sviluppo successivo rivela il valore di queste azioni. In ogni modo nulla è ancora perduto e se nonostante tutto si riuscirà a riconquistare il capo ufficio, ci si è già mossi in varie direzioni a tal fine, l'insieme sarà, come dicono i chirurghi, una ferita pulita e si potrà aspettare il seguito con fiducia. In questi e simili discorsi l'avvocato era inesauribile. Ad ogni visita li ripeteva uguali. Progressi c'erano sempre, ma la natura di questi progressi non poteva mai essere comunicata. Continuava a lavorare alla prima memoria, che pertanto non era mai pronta. Fatto questo che alla visita successiva appariva come un grande vantaggio, perché gli ultimi tempi, cosa imprevedibile, sarebbero stati molto sfavorevoli alla presentazione del documento. Se K, a volte sfinito da quei discorsi, notava che, pur tenendo conto di tutte le difficoltà, la causa andava avanti molto lentamente, gli si obiettava che non andava per nulla avanti lentamente, ma che certo si sarebbe stati molto più avanti se K si fosse rivolto per tempo all'avvocato. Purtroppo aveva invece trascurato di farlo, e questa trascuratezza avrebbe portato anche altri inconvenienti, non solo di tempo. La sola gradevole interruzione di queste visite era Leni, che sempre disponeva le cose in modo da portare il tè all'avvocato in presenza di K. In piedi, dietro K, fingeva di guardare l'avvocato che, curvo sulla sua tazza con una specie di avidità, versava il tè o lo beveva. E lei si faceva stringere di nascosto la mano da K. C'era un grande silenzio. L'avvocato beveva. K stringeva la mano di Leni e Leni osava a volte accarezzare lievemente i capelli di K. «Sei sempre qui?» chiedeva l'avvocato quando aveva finito. «Volevo portare via il vassoio», diceva Leni. C'era un'ultima stretta di mano, l'avvocato si asciugava la bocca e cominciava a convincere K con nuovo vigore. Voleva arrivare a consolarlo o a farlo disperare, l'avvocato? K non lo sapeva, ma considerava sicuro che la sua difesa non era in buone mani. Quello che l'avvocato raccontava poteva essere vero, anche se appariva chiaro che faceva di tutto per mettersi in primo piano e che forse non doveva mai essersi occupato di un processo tanto importante quale considerava appunto il processo di K. Ma le relazioni personali con i funzionari, poste di continuo in rilievo, rimanevano sospette. Dovevano essere sfruttate ad esclusivo vantaggio di K? L'avvocato non dimenticava mai di notare che si trattava soltanto di funzionari inferiori, di funzionari cioè in una posizione molto subordinata, per la cui carriera certe svolte del processo potevano forse essere importanti. Si servivano forse dell'avvocato per ottenere quelle svolte naturalmente sempre sfavorevoli per l'imputato? Può darsi che non lo facessero in tutti i processi. La cosa non appariva verosimile. C'erano certo anche processi in cui davano una mano all'avvocato per ricambiare i suoi favori, perché doveva premere anche a loro che conservasse intatta la reputazione. Ma se le cose andavano davvero così, come sarebbero intervenuti nel processo di K? Un processo molto difficile, dunque importante, a detta dell'avvocato, che fin dall'inizio aveva richiamato grande attenzione nel tribunale. Non c'era da avere molti dubbi su come si sarebbero mossi. Un segno di ciò si poteva già vedere nel fatto che la prima memoria non era ancora stata inoltrata, sebbene il processo durasse già da mesi, e tutto, secondo le asserzioni dell'avvocato, fosse ancora all'inizio, con il risultato, naturalmente, di assopire l'imputato e di renderlo inoffensivo, per assalirlo poi all'improvviso con la sentenza, o almeno con l'annuncio che l'istruttoria conclusa a suo sfavore era stata passata alle autorità superiori. Era assolutamente necessario che K stesso intervenisse. In condizioni appunto di grande stanchezza come quel mattino d'inverno, quando tutto gli passava senza volere per il capo, questa convinzione finiva con l'imporsi. Il disprezzo che prima aveva avuto per il processo non contava più. Fosse stato solo al mondo, avrebbe potuto facilmente trascurare quel processo, anche a non tener conto che il processo di sicuro non ci sarebbe stato. Ma ora lo zio lo aveva già trascinato dall'avvocato. Entravano in gioco considerazioni di famiglia. La sua posizione non era più del tutto indipendente dallo svolgimento del processo. Lui stesso, con una soddisfazione inesplicabile, aveva imprudentemente parlato del processo a conoscenti. Altri erano venuti a saperne in qualche modo. Il suo rapporto con la signorina Bursner sembrava subire le oscillazioni del processo. Insomma, non aveva più la scelta se accettare o respingere il processo. Vi era dentro e doveva difendersi. Tanto peggio se era stanco. D'altra parte non c'era motivo per il momento di allarmarsi troppo. Era stato capace di arrivare alla sua alta posizione nella banca in tempo relativamente breve e di mantenersi in quella posizione tra la stima generale. Ora doveva soltanto dedicare al processo un poco di quelle capacità che gli avevano consentito tale ascesa. E non c'era dubbio che tutto sarebbe finito bene. Se voleva arrivare a qualche cosa, era anzitutto necessario respingere fin dal principio ogni pensiero di una possibile colpa. Non c'era nessuna colpa. Il processo era soltanto un grosso affare, quale spesso aveva concluso a vantaggio della banca. Un affare in cui, come di regola, erano in agguato parecchi pericoli che dovevano essere stornati. A tal fine non poteva però trastullarsi con pensieri di una colpa, ma fermare il pensiero quanto più possibile sul proprio vantaggio. Da questo punto di vista era anche inevitabile revocare al più presto, meglio la sera stessa, il mandato all'avvocato. La cosa era certo inaudita, forse anche molto offensiva, stando a quanto quello aveva detto. Ma K non poteva tollerare di incontrare nel processo difficoltà provocate forse dal suo stesso avvocato. Ma una volta tolto di mezzo l'avvocato, la memoria doveva essere subito presentata e ogni giorno si dovevano fare pressioni perché fosse presa in considerazione. A tal fine non sarebbe bastato, ben inteso, che K stesse seduto come gli altri nel corridoio e mettesse il cappello sotto la panca. Lui in persona, oppure le donne, oppure altri inviati, dovevano assediare giorno per giorno i funzionari, costringerli a mettersi a tavolino e a studiare la memoria di K, invece di guardare nel corridoio attraverso il cancello. Non si doveva desistere da tali sforzi. Bisognava organizzare e sorvegliare ogni cosa. Una volta tanto il tribunale doveva scontrarsi con un imputato capace di difendere i suoi diritti. Ma se anche K confidava di eseguire tutto questo, la difficoltà di redigere la memoria era schiacciante. Prima, anche una settimana prima, aveva potuto pensare soltanto con un sentimento di vergogna all'eventualità di dover fare da solo quella memoria. Non aveva per nulla pensato che potesse essere anche difficile. Ma oggi K non pensava più alla vergogna. La memoria doveva essere fatta. Se non trovava tempo per essa in ufficio, cosa molto probabile, doveva farla a casa, di notte. Se non fossero bastate neppure le notti, doveva prendere una licenza. Ma non fermarsi a mezza strada, che non solo negli affari, ma sempre e ovunque, era la cosa più assurda. La memoria significava certo un lavoro quasi interminabile. Non occorreva un carattere molto apprensivo per arrivare agevolmente a credere che non era possibile finire mai la memoria. Non per pigrizia o per astuzia, che sole potevano impedire all'avvocato di finirla, ma perché all'oscuro dell'accusa e anche delle sue possibili estensioni, tutta la sua vita, sino alle minime azioni e avvenimenti, doveva essere rievocata, esposta ed esaminata da tutti i lati. Thank you. Quasi senza volere, solo per farla finita, cercò col dito il bottone del campanello elettrico che dava in anticamera. Mentre lo schiacciava, guardò l'orologio. Erano le 11. Aveva fantasticato per 2 ore. Un tempo lungo, prezioso, ed era naturalmente più affaticato di prima. Tuttavia il tempo non era proprio perduto. Aveva preso decisioni che potevano essere utili. I commessi, oltre a varia posta, portarono 2 biglietti da visita di signori che da un pezzo aspettavano K. Si trattava di clienti della banca molto importanti, che a rigore non avrebbe mai dovuto far aspettare. Perché arrivavano in un momento così poco opportuno? E perché, così sembravano chiedere i signori dietro la porta chiusa, un uomo diligente come K usava le migliori ore di ufficio per faccende private? Stanco per quanto era successo e in stanca attesa del seguito, K si alzò per ricevere il primo. Era un uomo piccolo, vivace, un industriale che K conosceva bene. Si scusò per aver disturbato K in un lavoro importante e K a sua volta si scusò per aver fatto aspettare tanto l'industriale. Ma espresse queste scuse con un tono quasi falso e in modo così meccanico che il fabbricante, non fosse stato tanto preso dal suo affare, se ne sarebbe dovuto accorgere. Trasse invece in fretta da tutte le tasche calcoli e tabelle, li mise davanti a K, commentò varie partite, corresse un piccolo errore di calcolo che aveva notato persino in quel rapido esame, ricordò a K un affare simile concluso con lui un anno prima. K aveva da principio seguito bene il discorso dell'industriale. Il pensiero dell'importante affare aveva preso anche lui, ma purtroppo non a lungo. Presto aveva distolto l'attenzione dall'interlocutore. Aveva poi ancora per un poco assentito con il capo alle esclamazioni più forti dell'industriale. E infine aveva smesso anche questo e si era limitato a guardare la testa calva, curva sui fogli, e a domandarsi quando l'industriale si sarebbe reso conto che tutto il suo discorso era inutile. Quando quello tacque, K credette davvero che lo facesse per consentirgli di confessare che non era capace di ascoltarlo. Solo con rammarico vide nello sguardo attento dell'industriale, evidentemente pronto ad ogni replica, che la conversazione di affari doveva continuare. Abbassò la testa come davanti a un ordine e cominciò a far scorrere la matita adagio qua e là sui fogli, fermandosi ogni tanto per fissare una cifra. L'industriale si aspettava delle obiezioni. Forse le cifre non erano sicure, forse non erano l'elemento decisivo. In ogni modo, l'industriale coprì con una mano i fogli e ricominciò, vicinissimo a K, ad esporre l'affare nelle sue linee generali. «È difficile», disse K, arricciò le labbra e si abbandonò sul bracciolo, visto che i fogli, l'unica cosa cui poteva attaccarsi, erano coperti. Così alzò appena lo sguardo quando la porta della direzione si aprì e il vice direttore comparve, non proprio nitido, ma come dietro ad un velo di garza. L'industriale si alzò di scatto dalla seggiola per affrettarsi incontro al vice direttore. Ma K avrebbe voluto che fosse 10 volte più pronto nel timore che il vice direttore potesse sparire. Timore superfluo. I due si incontrarono, si tesero le mani e andarono insieme verso la scrivania di K. L'industriale si lamentò di aver trovato nel procuratore così scarso interesse per l'affare e indicò K che sotto lo sguardo del vice direttore si chinò di nuovo sui fogli. Quando poi i due si appoggiarono alla scrivania e l'industriale si accinse a tirare il vice direttore dalla sua, a K parve che sopra la sua testa 2 uomini, di cui esagerava in fantasia l'altezza, trattassero il prezzo della sua persona. Adagio, voltando con prudenza gli occhi in su, cercò di sapere cosa avveniva in alto. Prese uno dei fogli dalla scrivania senza guardarlo, lo posò sul palmo della mano e lo sollevò lento mentre egli stesso si alzava verso i 2 signori. Non pensava con questo a nulla di preciso. Agiva solo con la sensazione che si sarebbe dovuto comportare così quando avesse redatto la grande memoria che doveva scaricarlo di tutto. Thank you.